Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Si chiama Guardie o Ladri, ve lo ricordo perché mi state dando soddisfazione. Devo essere sincero, lo visitate moltissimo e vorrei che lasciaste qualche commento in più però, perché sono sempre benvenuti. Anche gli insulti, mi raccomando, tanto rispondo sempre anche a quelli. Allora, tema sollevato da una nostra radioascoltatrice parmigiana che però vive a Milano, o meglio, insomma, le piacerebbe tanto vivere a Milano perché è andato alla ricerca di una casa qui nel capoluogo lombardo. E che cosa è successo? Beh, adesso ce lo facciamo raccontare da lei. Buongiorno Sonia Scaffardi. Buongiorno a voi, ciao a tutti. Allora, lei cercava casa a Milano e racconti che cosa le è successo. Esatto, io ho trovato ormai da un anno lavoro a Milano, inizialmente ho dovuto fare la pendolare, cosa che nonostante la distanza non sia poi così enorme, non riuscivo a conciliare gli orari, quindi ho iniziato a cercare casa a Milano tramite internet, annunci su bacheche di diversi siti. Venendo da una piccola città non mi rendevo conto degli affitti così alti e andavo alla ricerca sempre di qualcosa di più conveniente. Ho trovato un paio di annunci, ma direi anche parecchi annunci molto molto convenienti in zone centrali di Milano, e ho subito contattato la persona che aveva messo l'annuncio. Ecco, nel momento del contatto che cosa è accaduto? Che cosa accade? Nel momento del contatto, cioè dire che rispetto magari a molti altri annunci non era indicato nome, non era indicato numero di telefono, un riferimento diciamo molto più preciso. Quindi ho inviato un form tramite il sito di richiesta di poter avere maggiori informazioni riguardo la casa, e in risposta, non dico immediata ma comunque nell'arco della giornata ho avuto risposta, in un italiano un po' così che si lasciava desiderare. Stentato, certo. Esatto, in cui, riassumo un pochino, io le chiedo un anticipo di soldi da versare attraverso Western Union, che è questa catena di sportelli finanziari che spessissimo è utilizzata dai cittadini stranieri per spedire o ricevere soldi in cambio delle chiavi di casa per vedere l'appartamento, è così? Esattamente. Ecco, ma lei così lo ha fatto oppure ha detto, beh, forse non ci cado in quella che potrebbe essere una truffa? No, io avevo già capito che poteva essere una truffa, ma in un caso ho voluto continuare fino a vedere a che punto la persona andava avanti nella richiesta di questi soldi, e loro inventavano anche cose che potevano avere diciamo un senso, del tipo che questi soldi erano bloccati fino al momento in cui la persona andava a vedere fisicamente la casa. Il caso di interesse, io tenevo le chiavi e i soldi venivano trasferiti, in caso contrario invece i soldi mi venivano restituiti. Quindi lei ha fatto finta di cadere all'abboccamento e c'è stata, diciamo così, al gioco. Esatto. Ed è andata avanti, ma chiaramente non si è spinta oltre, vale a dire poi non ha versato i soldi, non ha preso le chiavi, no, ovviamente, tanto non l'avrebbe prese comunque. Allora, lei nella sua lettera giustamente solleva questo problema che è reale, realissimo e vale per tutti i giornali, e ci chiede, e noi lo chiederemo a chi lei chiama in causa, ci chiede, ma insomma, qual è il ruolo poi alla fine di un giornale che pubblica questi annunci nella verifica e nei controlli che quello che sta pubblicando non è passibile di truffe, sta lì soltanto per, come dire, per giustamente fare il suo mestiere e incassare la tariffa in cambio dell'annuncio, oppure anche responsabilità più ampie? Allora, per sapere, noi abbiamo chiamato, e di questo la ringrazio, la responsabile del servizio clienti di Seconda Mano, che è la dottoressa Stefania Castoldi. Buongiorno Castoldi. Buongiorno. Allora, dove inizia e dove finisce la vostra responsabilità? Quindi le chiedo, ma qual è anche la responsabilità morale di chi fa il nostro mestiere, di chi comunque è nel campo dell'editoria? Prego, dottoressa Castoldi. Guardi, diciamo, in senso generale Seconda Mano è una bacheca che pubblica un determinato quantitativo di annunci. Il nostro interesse è che gli annunci che pubblichiamo siano il più attendibili possibile. perché nel momento in cui avviene una truffa come quella tentata ai danni della signora Scaffardi, noi stessi siamo danneggiati, perché la nostra immagine ne viene sicuramente lesa. Quindi noi giuridicamente una responsabilità non l'abbiamo, perché non interveniamo nella transazione, certo. Non interveniamo mai nelle transazioni. Certamente, certamente. Chiaramente, no, una parte del nostro lavoro è proprio nel filtrare determinato tipo di annunci. Noi abbiamo, ad esempio, una squadra di persone che si occupa del controllo degli annunci. Ma lei quindi vuole dirmi che se io in questo momento apessi seconda mano, peccato non avere il tempo di farlo, ma invito i radioascoltatori a farlo e poi comunicarmelo, se io apessi in questo momento seconda mano non troverei più questi annunci, che voglio dire lo capirebbe anche un sordo cieco e muto, con il rispetto che si devono a queste persone diversamente abili, assoluto rispetto, lo capirebbe chiunque, che insomma sono delle vere e proprie truffe queste qui. Guardi, quelli che si capirebbe, diciamo così, lontano un chilometro, che sono delle vere e proprie truffe, non vengono neanche pubblicati. Bene. Perché vengono filtrati a monte. Abbiamo dei sistemi sia automatici che ci permettono di rilevare delle potenziali truffe, sia, come dico, delle persone che fanno dei controlli manuali. Ecco, ma è chiaro che, mi scusi, prego, noi riceviamo quasi 15.000 annunci la settimana e tecnicamente è difficilissimo poter controllare ogni cosa. Assolutamente, no, ma questo infatti è un problema che si pone da anni anche per le testate giornalistiche, quando si dice il direttore responsabile. Indubbiamente, una volta il direttore responsabile aveva con sé 20 giornalisti al massimo e 4 fogli messi in croce. Oggi il direttore responsabile di un giornale ha centinaia di allegati, centinaia di giornalisti, sto parlando ovviamente delle grandi realtà, e si pone effettivamente il problema di tutto quello che viene pubblicato. Quindi è un problema reale quello che lei sta facendo presente. Ma 15.000 annunci a settimana sono una valanga. Però le chiedo, qual è il fatto cento, il fatturato, voglio dire, di seconda mano, la portata di questo tipo di annunci, vale a dire gli annunci immobiliari all'interno dei quali purtroppo le truffe che si nascondono sono tante, tantissime. Ma guardi, la maggior parte di questi annunci sono gratuiti. Bene. Su seconda mano, online come su seconda mano giornale, la gran parte degli annunci sono annunci gratuiti, che vengono pubblicati gratuitamente. E il vostro vantaggio, il vostro business dov'è? Ma attenzione, noi abbiamo sia gli annunci gratuiti che ci permettono da un lato di vendere il giornale, certo, da un lato di avere navigatori sul sito, dall'altro lato di avere inserzionisti pubblicitari che pubblicano sulle nostre testate. Abbiamo anche degli annunci che vendiamo a pagamento. Benissimo. Ai privati. No, questa è una domanda che faccio proprio per cercare di capire qual è proprio la tipologia del vostro, come dire, di seconda mano, che è un giornale che io conosco poco, quindi glielo chiedevo proprio per ignoranza anche personale, per farlo capire ai nostri radioascoltatori. Quindi come dire, sintetizzando, dottoressa Castoldi, i controlli da voi ci sono, cercate di farli funzionare, insomma. Oltretutto tenga presente che però, come nella questione, come dire, del doping e dell'antidoping, i truffatori sono sempre un passo avanti a noi. Assolutamente. Quindi noi siamo sempre ad inseguirli. Quindi ogni momento che noi troviamo un nuovo tipo di truffa, ci concentriamo sul cercare di prevenirla, ma loro sono furbi e appena noi scoviamo il modo di scovarli, certo, gioco, certo, di parole, certo, ne trovano un altro. Benissimo, allora io tornerei un secondo alla Sonia Scaffardi per chiederle, ma che è la nostra radioascoltatrice parmigiana, da quelle che sono le sue esperienze, ovviamente i contatti di lavoro, i contatti magari con gli studenti, insomma chi cerca casa a Milano, questo specchietto per le allodole è un qualcosa di abbastanza diffuso, oppure, cioè, come dire, era la prima volta? Io non credo, no? No, assolutamente, anzi penso che si stia diffondendo sempre di più, tra l'altro. Sì, e di questo ne sono convinto anche io, perché infatti basta navigare molto su internet e questo si capisce al volo. Ma poi lei l'ha trovata a casa, signora Scaffardi? Sì, ho trovato casa, però per passaggio di parola, quindi da persone fidate che mi hanno passato contatti reali e amicizie, insomma. Quindi beh, L'esperienza su internet non è stata buona, positiva per me. Benissimo, allora io ringrazio ovviamente la nostra radioascoltatrice Sonia Scaffardi per il suo intervento, ringrazio anche Stefania Castoldi che è la responsabile del servizio clienti di Seconda Mano, e ovviamente l'invito a tutti i radioascoltatori, questo vale tanto per gli annunci immobiliari quanto per ogni altro tipo di annuncio, di drizzare molto bene le antenne nel momento in cui si cercano di fare affari, soprattutto quando sono affari estremamente troppo vantaggiosi, e quando, questo è un piccolo trucco, come nel caso della nostra radioascoltatrice Sonia, magari si chiedono anticipi di denari che vengono effettuati attraverso sportelli finanziari o attraverso internet, beh, lì deve un pochettino accendersi una luce di allarme. Grazie ai nostri ospiti, dico grazie in regia a Pietro Lacorte, in redazione ad Antonella Migliaccio, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.